Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Test a spalla baby, 1, 2, 3. Test a spalla baby, 1, 2, 3. Test a spalla, test a spalla, test a spalla baby, 1, 2, 3. Cola cola baby, 1, 2, 3. Cola cola baby, 1, 2, 3. Cola cola, cola cola, test a spalla baby, 1, 2, 3. Morbidi, flessibili, sciolti, voi come vi sentite? Provate a pensarci, spesso ci accorgiamo di essere invece tesi, contratti, ce ne rendiamo conto a volte per caso, osservando la nostra immagine riflessa in una vetrina, le spalle un po' curve, il collo proteso in avanti, oppure dalla fatica, dalla sensazione di rigidità che avvertiamo facendo movimenti semplici come raccogliere la matita che ci è caduta dalla scrivania. Mi è proprio caduto un attimo prima di entrare in onda. A volte il modo di essere condiziona il modo di stare. Molti dei nostri atteggiamenti, molti dei nostri blocchi e tante nostre tensioni sono anche frutto del nostro sentire emotivo. Ma a pesare ci sono anche gli anni, la mancanza di attività fisica, al contrario l'eccesso, le posture sbagliate. Insomma, cari amici, vogliamo parlarne? E soprattutto vogliamo provare a mantenere o a ritrovare la flessibilità? 800 24 0024. Ci aiuta la dottoressa Laura Bertelè, fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa e direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo e autrice di Ascolta e guarisci il tuo corpo, edito da Mondadori. Buongiorno dottoressa Bertelè, bentornata. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Io già con questo ritmino mi sento meglio. E lei? Questa musica è questa. Si muove. Era mitico. Allora, ascolta il tuo corpo. Io così prendo un po' a prestito il titolo del suo libro, una parte del titolo del suo libro, per prendere la direzione in cui lavorare. Dall'ascolto, infatti, leggendo il suo libro si capisce bene, arriva la consapevolezza. Sì. Sì, bisogna tener conto che effettivamente la nostra elasticità è fisica, è la traduzione di quello che noi siamo. E quindi è molto importante osservare e ascoltare il nostro corpo anche per avere indicazioni di come siamo dentro di noi. È il nostro corpo che ci dice come siamo e come reagiamo rispetto alle novità, alle situazioni nuove. Ecco, e quindi osservando la nostra elasticità fisica possiamo anche capire se siamo elastici emotivamente, se riusciamo ad affrontare con flessibilità quello che la vita ci propone. Allora, dottoressa Bertelè, proviamo a fare una sorta di mini test? Sì, ecco, ho pensato che si potrebbe pensare, ci sono tre livelli nel corpo che è importante valutare. Sì. Innanzitutto, il più importante di tutti è sempre la testa, perché è dalla testa che parte la posizione, cioè la testa che condiziona tutto il resto della posizione. Quindi per vedere se siamo abbastanza elastici nel movimento del capo, possiamo fare questo. Naturalmente se siete fermi potete farlo sia da seduti sia da in piedi, e tra l'altro vedete la differenza che ci può essere se siete seduti su una sedia comoda, se siete seduti su una sedia corretta, oppure ad esempio se siete su un divano o se siete in piedi. Quindi guardate davanti a voi, sì, e poi ruotate la testa piano piano e guardate dietro di voi, cercate di prendere un punto di riferimento dietro di voi, quindi ruotate da una parte, poi mettete in asse la testa, ruotate dall'altra e vedete se anche dall'altra vedete lo stesso punto di riferimento, o se vedete di più o se vedete di meno. Questo è un test molto semplice per capire quanto siamo elastici e potete poi paragonare dopo, se fate degli esercizi, se fate delle terapie o del movimento, se avete acquistato in elasticità. Quindi prima lavoriamo sulla testa, testa e collo. Poi possiamo scendere, dottoressa Bertelè? Sì, ad esempio per la schiena l'esercizio più semplice, più classico, è quello di mettervi in piedi, di flettere in avanti il tronco, sì, lasciare cadere la testa rilassata, le braccia rilassate, e con le ginocchia tese, senza assolutamente forzare, guardate a che distanza arriva la punta delle dita dal terreno. E questo vi dà un'idea dell'elasticità dell'insieme della muscolatura della schiena, dei dorsali. Quindi adesso noi proviamo, io non posso farlo perché sono seduta, lo farò subito dopo, è un esercizio molto semplice che possiamo fare per capire se riusciamo con le mani a toccare i piedi. Se non ce la facciamo vuol dire che dobbiamo ancora lavorare un po', no? Esatto. Sulla flessibilità, ma noi oggi impareremo a farlo, quindi non preoccupatevi, continuate a chiamarci all'800 24 00 24. Ma dottoressa Bertelè, abbiamo anche un, lei ha detto tre livelli, abbiamo fatto la testa, abbiamo gambe, quindi schiena, e abbiamo un altro livello, un altro pezzo di sì, test da diciamo eseguire. Diciamo che una parte molto importante del nostro corpo sono le spalle e gli arti superiori, naturalmente dal punto di vista del movimento. Per testare se le spalle e gli arti superiori sono abbastanza elastici, potete provare a fare questo piccolo test. Anche qui potete farlo sia da in piedi sia da seduti, però dovete farlo su una sedia senza schienale. Sì. Ecco, e provate a prendervi, ad agganciarvi le mani fra le scapole, sì, passando un braccio sopra la testa e l'altro braccio invece dal basso dietro, cioè sì, in una retroposizione. Ecco, riuscite a toccarvi con le dita, con le sì, mani, cioè le due mani riescono a toccarsi, ad agganciarsi. Se non ci riuscite, vuol dire che una delle due spalle è bloccata. Allora, io ho sotto controllo la situazione in regia, perché l'esercizio è stato eseguito in diretta da Filippa Oreggi, che regia la parte tecnica, da Laura Vanossi, da Miriam Lucchetti, che ci stanno seguendo. Non do i risultati, ma devo dire che siamo abbastanza flessibili. Fatelo anche voi e provate a chiamarci all'800 24 00 24. Quindi collo, mani giù ad afferrare i piedi e poi braccia incrociate all'indietro. A volte però il corpo parla in modo molto chiaro. In questo caso sono dolori quelli che ci fanno dire ai ai ai ai, sono tutto rotto. Hai fatto? Sembri una giraffa con la scoliosi. È divertente, ho un brutto torcicollo. Proprio oggi che De Marinis mi aveva incaricato di incontrare un cliente. Colpa dei riscaldamenti. Lo so, in macchina, ma lo tieni sempre troppo alto. Te l'ho sempre detto io. No, è che lo tengono troppo basso fuori, poi io mi prendo i colpi di freddo. Cosa gli vanno a dire a un cliente così? Ah, aspetta, ci penso io. Ma tu sei dell'ufficio acquisti, che ne sai di vendita? No, no, no, ti faccio una manipolazione. Cosa mi vuoi fregare, eh? L'accendino, il portafoglio, l'orologio. Ne ho fatte di manipolazioni da ragazzo. Cosa hai capito? Con un semplice gesto sbloccherò il tuo collo. Me lo faceva mia moglie quando eravamo fidanzati. Vai giù, vai giù. Luca, sai quello che fai? Sì, sì, sì. Tu devi rilassarti. Ti rilassi, sei rilassato? Sì, rilassato? Sono rilassato. Ah, ma ti volevo morto tua moglie prima di sposarti! Rilassati, rilassati. Fatto, fatto. Fatto, dottoressa Bertelè, un classico, il dolore al collo che avvertiamo ad esempio quando dobbiamo parcheggiare, proprio facendo riferimento alla torsione del collo che lei ci faceva fare nell'esercizio. In altri casi però il dolore non è legato a delle cause apparenti, è il caso ad esempio di quell'indolenzimento della schiena, quella tensione dolorosa che avvertiamo alle spalle. Spesso noi cerchiamo di fare finta di nulla, però mi sembra che questa non sia una buona idea, perché io ho imparato, leggendo anche il suo libro, che se cercando di attenuare un dolore rischiamo di modificare la postura e quindi di guadagnare altri dolori. Esatto, esatto. Volevo anche precisare, visto che avete scelto uno sketch molto interessante, molto carino, di non farvi manipolare da persone non competenti, perché può essere veramente pericolosissimo. Quindi anche le mogli, le fidanzate, esatto, che ti dicono ma no, dai che poi, guarda, ho imparato, ho visto, esatto, sono andata a fare un massaggio, facevano non così a livello inconscio, poi uno voglia torcere il collo all'altra persona. Quindi è vero. Quindi no, è veramente pericoloso. Effettivamente soprattutto sul collo e sulle spalle noi scarichiamo moltissime tensioni emotive, il peso della vita, il peso di certe situazioni che non riusciamo poi a lasciare, perché un conto è ad esempio una valigia che uno può depositare per terra, e un conto è una situazione, una sofferenza che viene prolungata nel tempo. Ecco, è molto importante, come diceva lei, di ascoltare anche le tensioni piccole, iniziali, perché il corpo si adatta con una capacità che ogni giorno mi stupisce e mi è straordinaria, meraviglia. È vero. Ecco, però alla fine paghiamo tantissimo, perché magari da un dolore cervicale viene fuori poi un'artrosi d'anca dopo mesi e anni, proprio a forza di continui adattamenti, finché viene fuori la patologia grave che ci obbliga a fermarci. Proviamo a sentire Loris che ci chiama da Padova e poi abbiamo subito dopo Ilaria da Trento. 800 24 00 24, ma vi ricordo che abbiamo il nostro profilo Facebook, di seguirci su Twitter, di potete anche scriverci al 349 238 6666. Ho fatto il mio compito, perché sennò Laura Vanossi mi sgrida. Loris, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Ha fatto gli esercizi? Io ho provato, li facevo, purtroppo ultimamente sono bloccato con la schiena per un'ernia lombare, L5S1, e niente, volevo qualche consiglio per sapere se potrò riprendere a farli, perché una volta riuscivo a arrivare con il palmo delle mani abbastanza bene a terra, adesso faccio fatica a arrivare alle ginocchia. È un po' bloccato. Sono bloccato probabilmente a seguito della corsa, che avevo la passione di correre. Sentiamo anche Ilaria da Trento. Ilaria, buongiorno a lei, benvenuta. Sì, buongiorno, salve. Io invece volevo chiedere alla dottoressa, poiché dopo la gravidanza, ormai sono passati 2 anni, ho avuto problemi alla parte lombare. In realtà ormai da 2 anni non mi sono più ripresa e soprattutto al mattino, dopo, insomma, quando mi sveglio, ho sempre dolori alla schiena. E insomma, a volte anche forti, che poi in realtà vanno via da soli, però ad oggi ancora non sono riuscita a risolvere. Volevo chiedere se, insomma, posso fare qualche esercizio in particolare, devo andare in palestra, se ha qualche consiglio. Grazie, grazie Ilaria. Dottoressa Bertelè, il punto, il tallone d'Achille sia di Loris sia di Ilaria è la zona lombare, la schiena, quindi sì. E la schiena dice e racconta tante cose. Intanto dobbiamo fare attenzione che quando la schiena, la parte lombare interessata, c'è sempre anche la parte cervicale. Appunto, come dicevamo prima, spesso la parte lombare parla perché non abbiamo sentito delle rigidità cervicali precedenti o non abbiamo percepito adeguatamente la tensione cervicale. In ogni caso dobbiamo tenere presente che i problemi della schiena, le ernie del disco, le sciatiche, i blocchi, sono sempre conseguenza di una muscolatura della schiena troppo rigida. Quindi innanzitutto non potenziare, non palestra, perché questo aggraverebbe le cose. Poi, per rispondere al primo ascoltatore, ci vuole pazienza, non forzare mai. Il calore ad esempio aiuta molto in una fase di contrattura muscolare, perché aiuta a rilasciare i muscoli, e poi darsi il tempo di recuperare, eventualmente accompagnati dai terapisti adeguati, cioè che siano competenti, che non manipolino, ma che lavorino sull'allungamento muscolare. Dottoressa Bertelè, quando voi dite, voi intendo medici, terapisti competenti, noi abbiamo veramente delle eccellenze, abbiamo dei terapisti che ci rimettono in piedi e riescono anche a farci prendere consapevolezza del nostro corpo, ma come si fa a capire in quale bisogna affidarsi, perché le discipline sono diverse. Sì, ci sono anche proprio filosofie opposte in questo momento. In questo caso che cosa si fa? Si prova tutto, si chiede, come ci si orienta? Perché è importante affidarsi naturalmente delle persone competenti, ma anche alla persona che applica, no? quella disciplina, certo. Quella tecnica, quella che fa bene per noi. Certo. Ma guardi, noi abbiamo un elenco dei terapisti che praticano, che hanno fatto la formazione e praticano il metodo basato appunto sui principi del metodo Maizière, ma a parte quello... Quindi possiamo dare il sito della Fondazione Apostolo. Ci può essere il sito di riferimento, però la cosa importante è anche provare una seduta e sentire, ascoltare proprio il corpo, se sta bene dopo, se si sente a proprio agio, anche se c'è un feeling col terapista, che è molto importante. Quindi ascoltare anche in questo il corpo. Ecco, volevo chiederle anche una precisazione. Dopo questa seduta di prova, quali sono i segnali che non dobbiamo avvertire, ad esempio il dolore, il formicolio? Quali sono i messaggi del nostro corpo che ci aiutano a capire che quelle sono le mani giuste per noi? Ma guardi, intanto non è detto che il dolore subito diminuisca, è la sensazione di maggior scioltezza uno dei segni più importanti, sì. Di benessere, cioè di maggior libertà, di sentirsi meno peso sulle spalle. In francese si dice je ne plein le dos, che vuol dire ho la schiena piena di problemi, ma penso che sia molto significativo, ecco, di togliersi dei pesi dalle spalle, la sensazione deve essere di maggior libertà. E quindi avvertiamo che il nostro corpo cambia. Non è facile guardare in faccia la trasformazione, è il mio corpo. Il mio corpo che cambia. In questa trasformazione hanno un ruolo anche le emozioni, i sentimenti che nel corpo, lo sappiamo, hanno una loro vita, tanto che per effetto della loro inibizione si possono verificare quelle tensioni a cui faceva riferimento la dottoressa Bertelet, che ci allontanano dalla condizione di benessere. Beh, noi abbiamo uno straordinario indicatore del nostro benessere fisico, psichico ed emotivo: il respiro. Voi continuate a respirare. Intanto io saluto la dottoressa Veronica Bismara, odontoiatra, esperta di rieducazione funzionale del cavo orale e della respirazione. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, agli ascoltatori e a Laura Bertelet. Tutti respiriamo, ma pochi sanno farlo come si deve. D'altra parte, dottoressa, se noi portiamo l'attenzione sul nostro respiro, ci accorgiamo che cambia, soprattutto non è più naturale. Però credo che ogni tanto convenga affrontare la situazione e capire se il respiro è contratto, rotto, corto, fluido, se così possiamo definirlo, armonioso, libero. Esatto. Eh? Allora, la cosa fondamentale è che la respirazione esatta, corretta, armoniosa e fluida, come dice lei, è quella che sfrutta tutti i polmoni, quindi dalla parte più dalla base polmonare, che sono quelli che ha dimensione maggiore, agli apici, e quindi usa il diaframma. Non è che esiste una respirazione diaframmatica, diciamo che il diaframma, che è un muscolo che separa la cavità dove sono alloggiati i polmoni dalla cavità addominale, è una sorta di cupola muscolare, appunto, che deve essere assolutamente morbida e flessibile. Quindi quando il respiro è contratto, corto, rotto, significa che questo muscolo non è abbastanza in movimento, ma che fa fatica, è rigido. E soprattutto chi usa molto la voce, sia parlata che cantata, sa quanto è importante la fluidità e la morbidezza e l'elasticità di questo muscolo. Ma come faccio a capire se il mio diaframma è flessibile? Perché questo, no, è un po' il cuore del problema. Respirare con la pancia, ma è un modo di dire, in effetti. Quando noi inspiriamo, cioè mandiamo l'aria dentro i polmoni, se noi dilatiamo leggermente l'addome, lo spandiamo verso l'esterno, questo movimento favorisce l'abbassamento del diaframma. Ecco. E l'abbassarsi del diaframma significa espansione polmonare. Quindi se noi ci guardiamo ad esempio allo specchio, seduti in una posizione comoda, come ha descritto benissimo la dottoressa Bertelet, quindi con una sedia con le ginocchia a 90 gradi, eccetera, ci guardiamo allo specchio e mentre inspiriamo vediamo che noi alziamo le spalle ma l'addome è fermo, significa che stiamo usando una respirazione troppo alta e sarà anche corta. E quindi questo lo possiamo verificare, ad esempio, se durante l'emissione del fiato, o semplicemente emettendo il fiato o dicendo una sillaba, una S, abbiamo un'emissione molto limitata, non so, 10 secondi, ecco. Quindi se andiamo davanti allo specchio dobbiamo vedere che le nostre spalle non salgano in alto, che la pancia vada un po' in avanti. Perché questo vuol dire che la respirazione è stata fatta in modo corretto, sì. E il nostro diaframma è flessibile. Noi oggi proprio lavoriamo su questa caratteristica, su questa che è importante, assolutamente importante per il nostro benessere. Ma per chi non ha lo specchio davanti o non vuole guardarsi allo specchio, appunto, fare un'emissione del suono. Proviamo. Inspira, ok, ad esempio una S. Proprio suono... questa doveva scegliere con me, dottoressa Bismara. Allora facciamo una M. Ecco, è a me la S. La M. Perché la S permette un No, sto scherzando, la fate voi. Sì, fatela pure con la S, così vi esercitate. Ok. Allora si inspira dal naso, dilatando un pochettino l'addome. È lunghissima questa S. adesso la interrompo perché non voglio fare dottoressa, la... dottoressa dovrebbe... Vismara, ma quanto dovrebbe durare allora, questa emissione? Un cantante buono ha 40 secondi di emissione, sì. Diciamo un parlatore normale almeno a 20 dovrebbe arrivare, ecco. Quindi occhio, iniziate con la vostra S, potete fare la M se come me parlate nell'S, sì. Avete qualche problema con questa consonante e... Occhio all'orologio, almeno 20 secondi, se sono in più meglio. Meglio, certo, ma con l'allenamento si può migliorare. E noi usiamo sempre queste due lettere, queste MS. Ogni... MS. Poi quando si è bravi si fanno le lettere aperte, ma allora l'emissione logicamente diminuisce perché il tubo fonatorio è più aperto, quindi esce più aria. Con la S ne esce poca e quindi si riesce a calibrare di più l'emissione in modo da far durare il fiato più a lungo. Ci alleneremo e poi la inviteremo nuovamente, così faremo il passo successivo con i suoni più aperti. Benissimo. Dottoressa Vismara, la ringrazio molto per essere stata con noi. Grazie a voi e un saluto a Laura Bertelè. Dottoressa Bertelè? Vuole salutare anche sì, la dottoressa? Ciao Veronica. Va bene. Allora, intanto che le nostre ospiti si sono salutate, io non vi saluto, ma vi do la linea ai mercati e al meteo, ma vi invito a rimanere con noi. Molti di voi mi stanno scrivendo che cosa è successo facendo gli esercizi suggeriti dalla dottoressa Bertelè. Ci sono colli bloccati, braccia che non si riescono ad agganciare, mani che afferrano troppi piedi. Un ascoltatore mi dice, ma io ho le braccia lunghe, per cui non faccio nessuna fatica, ma sarò flessibile. Essere e benessere. I giunchi della palude son verdi e si piegano al vento. Vidi una donna che la camminava al finire del giorno. Sull'acqua bruna della palude galleggiano i bianchi boccioli di loto. Io la scorsi in piedi sulla sponda al cader della notte. Tutta la notte rimango desto e non posso trovar sonno. Flessibile mi riappare come un semplice giunco nel vento. Chiudo gli occhi e rivedo la bianchezza della sua gola sull'acqua nera della notte illune, galleggiar come fiore di loto. Vi abbiamo fatto ascoltare una poesia di un anonimo cinese intitolata I giunchi della palude, che ha trovato la nostra brava Laura Vanossi e che a noi è piaciuta molto, per cui dottoressa Bertelè, ci è sembrato anche un modo carino per riprendere il tema di oggi. Parliamo di flessibilità e quindi noi cerchiamo di eliminare quelle tensioni, quei blocchi, quei piccoli dolorini che avvertiamo. Ma dottoressa Bertelè, lei che ha un approccio molto integrato e quindi legge anche i blocchi e le tensioni non solo dal punto di vista fisico, muscolare o articolare, ma anche come espressione delle tensioni emotive, può aiutarci a capire se quello che il disagio che avvertiamo, questa mancanza o ridotta flessibilità, può essere il risultato di una postura scorretta, di un eccessivo allenamento? Perché lo sport fa bene, ma lei ci insegna che se l'allenamento non è adeguato può provocare anche danni, oppure è un blocco emotivo, una tristezza, una difficoltà ad affrontare con flessibilità appunto quello che la vita ci presenta? Ma in realtà non è possibile distinguere, nel senso che il corpo poi parla sempre nello stesso modo, cioè con una rigidità e poi piano piano con deformazione delle articolazioni, deformazione della postura. Penso che sia proprio dentro di noi che possiamo capire che cosa ha provocato questa rigidità. Ad esempio, appunto, parliamo degli sportivi, accennavamo prima al fatto che il potenziamento eccessivo dà rigidità, però non è a caso che una persona voglia irrigidirsi, è comunque volersi creare una corazza, voler essere diverso da quello che si è. Ad esempio i ragazzi purtroppo adesso hanno tutti in mente questa idea che bisogna essere rigidi, potenziati, ma perché evidentemente si sentono fragili dentro e hanno bisogno di una corazza muscolare che li difenda, quindi sono poco scindibili le due cose. Dal punto di vista, certo, uno stress emotivo è più lungo in genere, dura di più, non so, penso alla sofferenza a una persona cara che è malata e che dobbiamo assistere, quindi c'è uno sforzo fisico per sollevarla, ma c'è anche tutto uno stress emotivo di accompagnamento. Certo. Ecco, questo sicuramente sono cose che si sommano frequentemente, è difficile dire è solo emotivo. perché c'è proprio un intreccio, un condizionamento a catena, a proposito di catene. Francesco da Pescara, Rosario da Palermo, Maurizio da Roma. Buongiorno Francesco. Buongiorno, volevo innanzitutto ringraziare tutti per la partecipazione e complimenti per la trasmissione. Una semplicissima domanda. Io premetto che ho sempre sofferto di problemini di schiena, soprattutto per quanto riguarda la zona inferiore, esattamente al di sopra dell'osso sacro. Sì. All'inizio della trasmissione la dottoressa faceva riferimento ad alcuni esercizi. Sì. Li ha fatti, Francesco? Io li ho sempre fatti. Mm. E devo precisare che mi sono anche sottoposto a visite specialistiche. Mm. Però gli unici benefici che riesco a trarre appunto derivano dagli esercizi di stretching, molti dei quali sono stati anche indicati dalla dottoressa. Sì. Io riscontro una carenza, una deficienza. Quando vado ad incrociare le mani all'interno, dietro la schiena, sì, mi rendo perfettamente conto che da un lato, ad esempio, se il destro abbraccia il sinistro, ci riesco perfettamente, invece dall'altro lato non fa più fatica. Esatto, faccio fatica. Può essere significativo, sintomatico di un... La dottoressa Bertelè aveva già dato un'indicazione a riguardo, precisamente sul un problema di spalla, una spalla bloccata. Dottoressa Bertelè, avevo capito bene? Sì, esattamente, nel senso che se una spalla è... Vengo a farle da assistente. Un po' troppo in avanti. Un po' troppo in avanti, cioè anteposta si dice, nel senso che viene troppo in avanti, ecco, naturalmente quella spalla, cioè il braccio corrispondente a quella spalla, farà fatica andare all'indietro. Ecco, ma questo non è, noi non vogliamo fare gli esercizi solamente per dire so farli, non so farli, ma vogliamo capire anche che cosa possiamo fare per riequilibrare, per ritornare alla flessibilità che per una serie di ragioni emotive, posturali abbiamo perso. In questo caso che cosa si può fare, dottoressa Bertelè? Ma ad esempio bisogna molto lavorare sull'allungamento dei muscoli, non fare il potenziamento dei muscoli dorsali, ma lavorare sull'allungamento dei pettorali e in apertura, come se uno allargando il braccio verso l'esterno dovesse toccare il muro, la parete che ha di lato, sì, proprio stirandosi. Se poi c'è una problematica più importante, bisogna come sempre avere un terapista che aiuta. Ma già facendo il lavoro di stretching fatto bene, non in accorciamento ma in allungamento, è un grande aiuto. Andiamo a Palermo. Rosario, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Grazie a lei, mi dica. Una domanda alla dottoressa. Sulla sabbia, sulla spiaggia, può provocare problemi di vario genere alla schiena? Correre sulla sabbia, ma scalzo calzato? Con le scarpe. No, corsa. Correre per così per divertirsi, ma durante il periodo balneare, correre tutto l'anno, diciamo. Tutto l'anno, poi a Palermo, dottoressa Bertelè, lo facciamo correre Rosario con le scarpe lungo la spiaggia o rischia la schiena, i piedi? È più faticoso comunque, sì. Tenere conto che viene stimolato molto di più sia la pianta sia l'attività di tutta l'arto inferiore e della schiena. Quindi non deve affaticarsi, non dobbiamo mai porci degli obiettivi esterni, dire faccio questo in tot tempo. Cerchiamo di ascoltarci, di dire no, sono stanco, mi riposo, smetto, mi fa male la schiena, oggi non lo faccio, cioè non lo devo fare e tutti i giorni lo faccio, anche se poi magari ho male, perché in effetti correre sulla sabbia è più faticoso, ci vuole un po' di buon senso. Sempre. Usiamo la testa. Esatto. E a proposito di teste, quindi di cervello, la flessibilità è una caratteristica fondamentale del nostro cervello, che riesce a eseguire diverse azioni in risposta a un identico stimolo, insomma di essere presente, come si dice, contemporaneamente su diversi fronti. Si parla sempre, no, di cervello multitasking, una caratteristica che sembra tipicamente femminile, ma noi ne vogliamo parlare con il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari. Buongiorno professore. Buongiorno a te Nicoletta, ai tuoi illustri ospiti e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Neuropsicologo e presidente di Assomensana, nonché un nostro collaboratore del Daily Lab. Professor Iannoccari, insomma, noi, la vita di oggi ci costringe ad essere multitasking e per fortuna qualcuno ci ha dato un cervello capace di affrontare queste sfide, perché riusciamo a fare più compiti contemporaneamente. Quindi aiuta, serve, ma alla fine stanca. alla fine stanca, perché il lavorare in multitasking richiede un cambiamento della direzione dell'attenzione su più fronti, per cui noi dobbiamo continuamente cambiare il nostro obiettivo e quindi riattivare i metodi e le regole per affrontare il nuovo compito. Abbiamo anche rilevato che questa attività di multitasking piace. Per esempio, degli studi che sono stati fatti presso la Stanford University è stato rilevato che tra i ragazzi tra i 12 e i 24 anni cambiare compito continuamente è un'attività piacevole, anzi ricercata, tant'è che sempre più frequentemente, ad esempio, gli studenti quando studiano tengono la radio accesa oppure rispondono in tempo reale ai messaggi. Questa attività di multitasking in qualche modo può migliorare anche le prestazioni ad un compito, in quanto consente di riprendere un attimo la visione globale di quello che si stava facendo prima e di affrontarlo con maggior efficacia, per cui non è così negativo. È vero che stanca, perché cambiare continuamente l'attenzione da un obiettivo all'altro è un compito cognitivo in più. Importante. Professore Iannoccari, quando ancora non si parlava di multitasking e non c'era tutta questa tecnologia e noi eravamo ragazzi e si studiava, le nostre mamme ci dicevano: fai una cosa alla volta, così impari meglio. Quindi quando si studia, quando si ascolta musica. Ecco, che cosa è cambiato? Allora, intanto è cambiato il modo in cui la società ci propone di fare le cose, per cui noi siamo bombardati da tantissime informazioni e il bello, per fortuna, che siamo curiosi e vorremmo fare tante cose, quindi il tempo disponibile è poco e cerchiamo di ottimizzarlo frammentando le nostre attività durante la giornata. Sì. Allora, è vero che fare una cosa alla volta consente un apprendimento più accurato, in quanto facendo una cosa per volta noi andiamo a depositare le informazioni nella struttura cerebrale che si chiama ippocampo e che rende quelle informazioni disponibili anche per altri compiti. Sì. Per cui noi quello che abbiamo appreso lo possiamo poi utilizzare in altre attività. Mentre ciò che apprendiamo in multitasking, anche se la qualità dell'apprendimento non cambia, però l'informazione non va a finire nell'ippocampo, bensì in un'altra struttura cerebrale che si chiama striato. Lo striato è il deposito delle informazioni procedurali, quindi è un luogo in cui difficilmente noi riusciamo a recuperare quell'informazione e renderla disponibile per altre attività. Ciò che cosa significa? Che se vogliamo essere flessibili vale la pena fare una cosa alla volta, in modo tale che quell'informazione poi possa essere utilizzata anche in altri contesti, quindi migliorare la flessibilità. La ripeschiamo ed ecco che siamo pronti. Professor Iannoccari, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, aspettate. Aspettiamo di leggerla nel nostro Daily Lab con i suoi preziosi consigli e di allenamento per allenare la mente. Grazie al professor Iannoccari. Essere e benessere. Maurizio, buongiorno, ci chiama da Roma. Maurizio? Sì, buongiorno. Buongiorno, eccomi. A lei, Maurizio. Dunque, buongiorno a tutti quanti, gli ascoltatori e i colleghi. Io sono un fisioterapista, docente di medicina tradizionale, massaggio tradizionale cinese, Tuina. Sì. E insegno al master di primo livello dell'Università di Tor Vergata questa materia, così come la insegno all'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma da circa 15 anni. Sì, perché ne abbiamo parlato anche di questa integrazione all'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma, no? Di questa apertura nei confronti della medicina. È il primo ospedale in Italia che si è aperto all'agopuntura, storicamente il primo ambulatorio presente. Allora, Maurizio, io la ringrazio. Grazie per questa sua presentazione, ma immagino che anche lei voglia portare un contributo per renderci tutti più flessibili. Faceva accenno al Tuina di cui abbiamo parlato, questo massaggio. Ci vuole raccontare, ci vuole dare un'indicazione? Questa mia meravigliosa tecnica di massaggio tradizionale è un'arte che si tramanda da circa 5.000 anni. Quindi ha una sperimentazione sull'uomo che non ha praticamente pari sulla terra. E nell'arte compresa del massaggio tradizionale cinese vengono poi estrapolate da questa diverse altre tecniche, quali lo shiatsu, per esempio, sì, dei vari tipi, o il micromassaggio, eccetera. Ecco perché tante volte, Maurizio, io la chiamo per nome, ma chiedo, certo, conferma alla dottoressa Bertelé, la mancanza di flessibilità si nota proprio a livello muscolare. Abbiamo i muscoli che sembrano rigidi, contratti. Dottoressa Bertelé, il suggerimento di Maurizio, quindi il tuina e alcuni tipi di massaggio, possono sicuramente, se effettuati da mani esperte, sciogliere queste tensioni. Certo, anche perché lavorano sui punti dei meridiani e quindi danno un riequilibrio che non è solo muscolare, ma come i cinesi avevano già compreso appunto migliaia di anni fa, la contrattura muscolare corrisponde anche a problematiche di organi che sono collegati a questi muscoli attraverso i meridiani, per dire in modo molto semplice. La stessa cosa vale per il Tai Chi, che è una pratica che io consiglio molto, che è, diciamo, la ginnastica terapeutica cinese derivata appunto dai principi di allungamento e equilibrio dei meridiani. Ecco, sono fondamentali integrazioni a quello che facciamo. Maurizio, vuole aggiungere un piccolo consiglio per i nostri, certo, ascoltatori? E nelle pratiche orientali, quali il Qigong o il Tai Chi Chuan con i vari stili, e comunque con le tecniche di massaggio e allungamenti che vengono fatti da mani esperte, ovviamente, e diciamo che per essere certi che le mani siano esperti ci sono delle associazioni a cui ci si può rivolgere, sì, alle quali rivolgersi. Io ne posso citare una a livello nazionale, ecco, che è la 8, che è operatori tuinai. Beh, ecco, allora Maurizio, questo ci pare una buona indicazione. Intanto io la ringrazio per averci chiamato, per seguire la trasmissione, per averci dato anche questa informazione che è utile per ritrovare la flessibilità. Una flessibilità che, come abbiamo visto, tante volte è frutto di tensioni, del modo in cui noi prendiamo la vita. D'altronde, di una persona si dice è rigido o flessibile. E parliamo di questo con il dottor Francesco Aquilar. Buongiorno, dottor Aquilar. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il nostro dottor Aquilar, psicologo, psicoterapeuta cognitivo ed esperto del nostro Daily Lab. Dottor Aquilar, sembra che la flessibilità sia una dote, almeno nelle relazioni, no? Avere un amico flessibile vuol dire un amico che ti viene incontro, che capisce la situazione, che si adatta. Ma è assolutamente una dote ed è molto importante che ciascuno di noi la sviluppa non solo per se stesso ma anche per gli altri. La flessibilità che si accompagna anche al superamento dell'egocentrismo cognitivo, cioè non dobbiamo essere così egocentrici, dobbiamo sapere che la realtà appare legittimamente diversa a seconda dei vari punti di vista dalla quale la si vede. Però contemporaneamente dal punto di vista psicologico serve anche una disciplina interiore, perché un eccesso di flessibilità fa sì che le persone non raggiungano mai i loro obiettivi. Quindi come si fa a trovare il giusto equilibrio? Ma l'equilibrio è quello che riguarda la flessibilità nella comprensione sia di noi stessi che degli altri, ma la disciplina interiore per quello che riguarda la distribuzione del tempo e delle attività e dei luoghi nei quali noi conduciamo gran parte della giornata. Questa disciplina interiore però deve essere autocompassionevole. È inutile che noi ci autoinsultiamo, dobbiamo però autocostringerci a volte a fare quello che ci serve su un medio e lungo termine. Vogliamo fare un esempio concreto, dottor Aquilar, che così noi capiamo bene? L'esempio concreto è quello di autocostringerci alle cose che ci possono servire. A volte le persone possono, per esempio, rimandare una visita medica che a loro serve, spostare infinitamente e procrastinare nel tempo di svolgere un compito che è stato loro chiesto. Gli studenti universitari possono procrastinare un esame a lungo andare, e questo finisce con un eccesso di flessibilità col farci sentire male e farci sentire sempre senza la risoluzione dei nostri obiettivi. In questo c'è anche un'interazione tra il tipo di società che è diventata iperflessibile, con le parole d'ordine che derivano dall'economia di flessibilità, rischio, sì, e mobilità, e il nostro bisogno di sicurezza, sicurezza anche nella capacità di ciascuno di noi di realizzare i suoi obiettivi quotidiani. Dottor Aquilar, dottoressa Bertelè, io vi ringrazio per essere stati con noi, abbiamo proprio fatto un'esplorazione a 360 gradi di questo termine, flessibilità, che abbiamo capito essere così importante per il nostro benessere psicoemotivo. Dottoressa Bertelè, dottor Aquilar, chiudiamo proprio con una parola chiave, un consiglio da portarci in tasca oggi per affrontare bene la giornata. Dottoressa Bertelè. Proprio libertà, spazio dentro di noi. Dottor Aquilar? Nella società dell'incertezza cerchiamo di essere certi almeno delle relazioni affettive che sono per noi più importanti. A quel punto tutto si può fare. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie ai miei esperti. Vi ricordo che potete scriverci su esserebenessere@radio24.it, potete andare sulla nostra pagina Facebook, seguiteci su Twitter. Per oggi è tutto, io vi ringrazio, ma soprattutto vi aspetto. Soprattutto vi aspetto per domani. Domani un grande appuntamento, l'avete letto sicuramente anche sul nostro sito, inizia Mangia con me. Devo dire che la risposta che ci avete dato è assolutamente entusiasmante. Domani vi daremo anche qualche dato, insomma c'è quasi da montarsi la testa a pensare che tante persone desiderano mangiare con noi. Avremo il nostro primo concorrente, quindi io vi invito a seguirci, perché dalla storia del nostro primo concorrente, poi ce ne saranno uno per ogni settimana, impareremo e scopriremo che il cibo ci parla, ci manda dei messaggi di salute, e con il cibo, attraverso il cibo, noi riusciamo a stare meglio. Per oggi è tutto, io vi saluto, un caro saluto da Nicoletta Carbone.